24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7 e 30 minuti in punto, cari ascoltatori, ben ritrovati. Una nuova settimana di 24 mattino che riparte oggi. Riparte subito con il sondaggio che vi voglio lanciare. Detto che ci eravamo lasciati venerdì con il sondaggio su Berlusconi, secondo voi perseguitato o no dai magistrati? Sul sito della radio avete votato in tantissimi, vi siete divisi, hanno prevalso i no, anche se di poco, il 52%. Oggi parliamo di alcol e guida, alcol al volante. Sapete che c'è, forse lo sapete, una proposta di legge che vuole introdurre l'alcol zero per i neopatentati e gli autotrasportatori. Ma c'è anche chi si è spinto oltre e dice ci vorrebbe zero alcol, zero per tutti coloro che si mettono al volante, indistintamente. Quindi anche togliere questo limite dello 0,5 microgrammi. Zero alcol, alcol zero assoluto, siete favorevoli a questa proposta oppure una proposta secondo voi troppo dura? Dovete votare su radio24.it alla sezione bianco o nero che trovate sulla home page a destra. Oppure il sole24ore.com. Ne parleremo poi alle 8.30, ora i giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. Sono abbastanza simili le aperture oggi, almeno per quel che riguarda la notizia principale, le reazioni politiche, l'attacco di Berlusconi, questa volta se l'è presa soprattutto con la stampa estera, l'affondo di Berlusconi contro stampa estera e giudici, così apre il Corriere della Sera. Berlusconi contro stampa e giudici, La Repubblica. Berlusconi contro la stampa estera, La Stampa. Insomma, vedete, abbastanza simili. Berlusconi contro la stampa estera, uguale sul Messaggero. Poi il giornale, se leggessimo noi l'uomo del Quirinale, una domanda che poi vedremo, un'interessante proposta di Vittorio Feltri, molto interessante anche l'apertura dell'Unità, ma non voglio svelarvela, la vedremo più avanti, di altro taglio. Ma dicevamo, insomma, l'aspetto della politica e quello che succede dopo la bocciatura del Lodo Alfano, la reazione di Berlusconi ancora primeggia sulle prime pagine dei giornali, soprattutto prima dell'attacco alla stampa estera c'è un po' ovunque, lo trovate, quelle che sono i progetti di riforma che ora vuole rilanciare Silvio Berlusconi. Sono indiscrezioni, ma indiscrezioni che si fanno sempre via via più concrete. La voglia di rilanciare con una riforma forte, per esempio, si legge sul Corriere della Sera, il Premier ai suoi dice siamo in guerra ed è proprio la voglia di una riforma forte. Tra le ipotesi, l'elezione diretta del capo del governo. Bisognerebbe ovviamente cambiare la Costituzione, dice Marco Galluzzo nel suo reportage da Benevento, dove ieri era Berlusconi. Solo due indizi che ha dato Berlusconi, ma corroborati dal parlottio dentro lo staff di Berlusconi. Elezione diretta del capo del governo, sussurrano. Quando? Come? È ancora solo una voce e poco strutturata, ma viene fatta circolare. Lui stesso, il Premier, afferma ad inizio comizio, dice e non dice, afferma che sta riflettendo, ma occorre fare una riflessione su quello che è successo. E basta andare su Repubblica, pagina 3, che si legge «Così punta alla grande riforma». Presidenzialismo prima del 2013, questo è un articolo di Liana Milella, che scrive «Ha una paura il Cavaliere di essere condannato a Milano nei processi Mills e Diritti TV, di essere poi sbalzato via di sella da Napolitano, l'incubo del 94 che ritorna. Si sente tradito dal colle sul Lodo Alfano, non si fida più delle rassicurazioni dell'avvocato Ghedini, vuole subito una legge sulla prescrizione rigida che lo metta al riparo dalle grane giudiziarie e poi, eccola lì, una grande riforma». Che in un colpo solo chiuda i conti con la magistratura e consegna alla storia la sua presidenza del Consiglio. Questa Liana Milella su Repubblica, ma dicevamo che il giornale con Vittorio Feltri lancia anche una domanda, provocazione forte. Se leggessimo noi l'uomo del Quirinale, questo è il titolo di apertura, e Vittorio Feltri dice prendiamo atto, in Italia si può aggredire il Papa con critiche feroci, la più ricorrente delle quali riguarda le sue presunte ingerenze negli affari politici nel nostro paese, ma non è lecito dire neanche mezza parola sul capo dello Stato. E poi all'interno Vittorio Feltri nel suo editoriale lancia la proposta, un suggerimento a Berlusconi, fossimo nei suoi panni non esiteremmo un minuto a mutare l'assetto dello Stato correggendo la Costituzione. Qui si tratta di trasformare quella esistente in Repubblica Presidenziale. Poiché il presidente la sua sul colle rappresenta l'unità nazionale, cioè tutti i cittadini, sarà meglio sia eletto dal popolo anziché dal Parlamento, che è noto, agisce secondo logiche politiche, se ne infischia del bene comune. Non è un cambiamento da niente, serve qualche mese per attuarlo. La sinistra non ci sta, scrive Feltri, pazienza. Alle Camere la maggioranza assoluta c'è ed è del Cavaliere. Si fanno due passaggi in Parlamento, dopodiché sarà chiesto un referendum, si va dalle urne, voglio vedere chi vince. E se, come ipotizzo, gli italiani diranno di sì all'elezione diretta del capo dello Stato, storia chiusa, polemiche chiuse, basta giochetti. Poi Feltri fa anche un PS ancora contro Gianfranco Fini. Scrive Feltri in chiusura di articolo, PS, tra l'altro Gianfranco Fini per una vita ha reclamato una repubblica presidenziale, d'accordo che ora ha una gamba nell'opposizione, ma non credo abbia il coraggio di rimangiarsi la riforma di cui è padre. Non le pare, presidente Berlusconi? E insomma, quello della grande riforma è un tema, delle riforme ora da fare, è un tema che trovate sui giornali dopo la bocciatura del lodo Alfano, come ovviamente... come detto, trovate la vicenda dell'attacco alla stampa estera, le parole molto dure, i quotidiani stranieri stanno muovendo accuse assurde che fanno male all'Italia, sputtanano non solo il Premier, la nostra democrazia, il nostro paese. Questo ha detto Berlusconi ieri. E tra l'altro sulla stampa si legge il direttore del New York Times, sono pronto a rispondergli. Bill Keller si trova sul mattino, si trova sulla scrivania di Primo Mattino le parole di Berlusconi e dice: se Berlusconi ha particolari rimostranze nei confronti della nostra copertura, mi piacerebbe ascoltarle, sono pronto a rispondergli, non c'è motivo per me di rispondere se no ad affermazioni generiche. Questo il direttore del New York Times, ma insomma ci sono un po' di reazioni ovviamente comprensibilmente irritate da parte di direttori dei vari giornali della stampa estera. Tra l'altro interessante, si legge a pagina 2 del Corriere della Sera, la Brambilla crea una task force anti-detrattori. La Brambilla è ministro del turismo e che succede dopo le accuse di Berlusconi? Ecco, si legge in questo articolo di Giovanna Cavalli, a questo punto ci vuole la task force, un pool di pronto intervento che si occuperà di raddrizzare il look dell'Italia all'estero. Lo sta mettendo insieme il ministro per il turismo, Michela Vittoria Brambilla. I compiti che avranno sono sostegno e valorizzazione dell'immagine italiana nel mondo. Il premier Berlusconi ha proprio ragione, dice la Brambilla, ormai esportiamo soltanto insulti. Non si parla di quanto il paese abbia retto la crisi economica, nemmeno alla ricostruzione dell'Aquila. C'è un partito anti-italiano che lavora contro l'Italia. E dunque ecco la proposta della Brambilla, mettere in piedi una task force, un gruppo di giovani giornalisti, esperti di comunicazione, età media massimo 30 anni, con un doppio compito: monitorare tutta la stampa estera, quotidiani, periodici, TV a ogni latitudine, dal Giappone al Perù, e poi bombardare quelle stesse redazioni con comunicazioni veritiere e positive. Ma Giovanna Cavalli chiede una velina mondiale. No, non sarà un bollettino governativo, racconteremo fatti concreti. Verranno segnalate iniziative dell'esecutivo, se sarà il caso, ma soprattutto faremo conoscere l'Italia generosa, vera e audace. Così Michela Vittoria Brambilla, dunque, che risponde insomma con questa task force dopo le accuse del presidente Berlusconi alla stampa estera. Tra l'altro, di stampa, di rapporti anche tra i vari giornali, oggi trovate un interessante editoriale del direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che risponde ad alcune critiche che sono state avanzate in questi giorni al Corriere, prima fra tutte proprio da Silvio Berlusconi, ma anche da altri. Un'informazione libera e corretta, questo è il titolo dell'editoriale di De Bortoli, che scrive: non potevamo ricevere migliore attestato dell'indipendenza del Corriere. Nel giro di 2 giorni siamo stati attaccati sia da destra sia da sinistra. Al Cavaliere non sono andate giù le inchieste di Bari, svelate per primo dal Corriere, né forse alcune posizioni sul lodo Alfano, sullo scudo fiscale o la difesa delle regole costituzionali. Marco Travaglio ed Eugenio Scalfari, che ieri hanno scritto sui rispettivi giornali Il Fatto e La Repubblica, ci rimproverano sostanzialmente di non far parte dell'esercito mediatico che Berlusconi lo vorrebbe mandare a casa, senza chiedere agli italiani se sono d'accordo. Ma poi scrive De Bortoli, un giornale non è un partito. Invece quello che sta succedendo oggi è che i fatti non sono più separati dalle opinioni, sono al servizio delle opinioni. I lettori rischiano di essere inconsapevolmente arruolati in 2 trincee dalle quali si danno vita a campagne stampa e raccolte firme. E poi più avanti scrive De Bortoli nel suo editoriale: al Corriere che ha le sue idee si rispettano quelle degli altri, altrove no. Una tregua è oggi necessaria. Berlusconi ha commesso anche ieri i suoi errori. Mostri più rispetto per le istituzioni e per la stampa, anche estera. Gli altri per la volontà della maggioranza degli elettori. Insomma, anche lo stato dell'informazione, anche le polemiche. Tra l'altro De Bortoli all'interno a pagina 12 dedica invece una risposta proprio mirata solo ad Eugenio Scalfari e a Marco Travaglio, alle accuse fatte dai giornali Il Fatto e La Repubblica. Questo per dire, insomma, del clima. Trovate un altro tema che ritorna, chissà se ce ne occuperemo domani, forse sì, quello dell'immunità parlamentare. Si sta facendo largo sempre più l'idea di un ritorno all'immunità che fu cancellata dopo Tangentopoli. Immunità in campo anche i ministri, si legge sempre sul Corriere della Sera. Sì di Brunetta e Rotondi, ci sono varie proposte di legge. Gli onorevoli che lavorano ai progetti per ripristinarla. E tra l'altro, singolarmente, di immunità si parla, anche se in via incidentale, nell'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio. In realtà il tema è quello del PD, che è l'altro grande tema politico che trovate sui giornali. Il PD ieri c'è stato, insomma, una convention importante, la convention di 2 ore e mezzo, in cui i 3 sfidanti alla segreteria si sono trovati di fronte, hanno fatto i loro discorsi e tra 2 mesi si voterà. Sto con Bersani perché è serio, sorride volentieri e bada al sodo. Questo è il titolo dell'editoriale di Giuliano Ferrara. È augurabile che nel PD vinca Bersani. È una persona seria, non ha inclinazioni lunatiche, non gli verrebbe mai in mente di andare a giurare sulla Costituzione nelle mani di suo padre su marciapiede, ciò che ha fatto preso da entusiasmo il suo rivale. Bersani è ciellino ma non cattolico, in questo c'è una sfumatura allegra di cinismo e di realismo intrecciati. È un tipo che sorride volentieri. Non lo si è sentito in prima fila nella lotta contro la mignottocrazia, così la chiamano. Bersani è uno che bada al sodo, all'economia, alla produttività, alla concorrenza, all'occupazione, alla buona amministrazione, alla plausibilità della contrattazione sindacale, a un funzionamento equo e opulento, equo perché opulento, del capitalismo globale. Franceschini è dignitoso, ma ha qualcosa del sacrista che ti prende in giro. Fossero vere primarie, però, ai 2 dovrebbe essere posta tra le altre una domanda cruciale, almeno di questi giorni. Ed ecco qui quello che dicevo. Siete disposti a trasferire con voto bipartisan le norme del Parlamento europeo sull'immunità nel sistema costituzionale italiano, che oggi è privo di qualunque contravveleno alla politicizzazione dell'azione penale, al fumus persecutionis? Credo che Bersani risponderebbe di sì, Franceschini di no. Una buona ragione non demagogica di serietà e responsabilità istituzionale per votare Bersani. E tra l'altro sul tema del PD si concentra molto anche Repubblica, anche l'Unità, ci sono all'interno tutte i vari interventi da parte di Bersani, Franceschini e Marino, i 3 contendenti con le primarie alla poltrona del PD. C'è, a dire la verità, su Repubblica anche un articolo un po' critico di Curzio Maltese, il partito e gli elettori. Voglio trovare un senso a tante cose, canta il Vasco Rossi imitato da Bersani, ma un senso il congresso del PD finora non l'ha avuto, scrive Maltese. Restano 2 settimane per recuperarne uno e convincere almeno 2 milioni di italiani a partecipare col voto alle primarie. Tra 2 settimane, appunto, non 2 mesi, come ho detto prima. Sarebbe un duro colpo a Berlusconi, che ne ha ricevuti tanti in questi mesi, mai però dal PD. Con tutto quello che succede, chi si ricordava della corsa alla segreteria del PD? Perfino ieri, nel giorno della convenzione, la scena è stata rubata dal Cavaliere. Le aperture dei telegiornali fotografano una lotta impari. Da un lato un Berlusconi alla spallata finale, in guerra aperta con Costituzione, Consulta, Presidente della Repubblica. Dall'altra 3 gentili signori, Bersani, Franceschini, Marino, che dibattono di forme partito, alleanze e statuti interni. Questa è l'immagine che il principale partito d'opposizione ha dato al paese, e non da oggi. Una totale incapacità di cogliere la crisi nazionale e internazionale del berlusconismo. Restano 2 settimane da qui alle primarie per ripartire all'attacco. È quanto chiedono gli elettori, così dice, così scrive Curzio Maltese su Repubblica. In primo piano. Tiananmen, le foto mai viste. Questa è la prima pagina dell'Unità di oggi, davvero un qualcosa che si distingue dalle aperture degli altri giornali, un'esclusiva che ha l'Unità, Che è successo? È successo che Ma Jian, che è un fotografo dissidente rispetto al regime, è in questi giorni in Italia, si trova a Cagliari ospite del Festival della Letteratura. Ebbene, inizia così il reportage di Francesca Ortalli che l'ha incontrato. Ma Jian apre il suo computer, è seduto a tavola, sta facendo colazione in albergo, sono le 10 del mattino. Ecco, dice, questo è quello che è successo a Tiananmen. Ebbene, cari ascoltatori, l'impatto è fortissimo. Sullo schermo scorrono immagini agghiaccianti, bisogna staccare lo sguardo, prendere fiato, poi riavvicinarsi poco per volta. Alcune foto le ho scattate io. Era l'inizio dell'occupazione della piazza verso metà maggio. E cosa raccontano le foto che trovate all'interno in 5-6 pagine di resoconti? Beh, raccontano innanzitutto prima la gioia degli studenti che andavano verso piazza Tiananmen per manifestare, la occupavano, e poi le foto del massacro, i corpi ammassati, i corpi davvero abbandonati, anche travolti dai carri armati del regime di Pechino. Beh, con la gente, anche molta gente che vede i morti per le strade e va via, finge di non vedere, insomma, davvero foto molto molto dure che voglio segnalare, perché sono un'esclusiva appunto che trovate in prima pagina all'interno dell'Unità. Così come trovate un qualcosa solo sul Corriere della Sera che sicuramente regalerà anche un po' di emozioni, ed è la vicenda di Eluana Englaro, che torna alla ribalta. Perché? Perché il padre Beppino Englaro ha scritto un nuovo libro, si titola La vita senza limiti, l'ha scritto con una giornalista della RAI, Adriana Pannitteri, e in questo libro per la prima volta emerge l'Englaro, scrive il Corriere della Sera, che mancava, quella tesserina per completare il puzzle di una storia tormentata, vale a dire Beppino Englaro, che per una volta dà sfogo anche ai suoi sentimenti mai pronunciati. Per esempio, dice Beppino Englaro, leggendo uno stralcio del libro che oggi appunto anticipato sul Corriere della Sera: per darle l'ultimo saluto volevo essere solo, in fondo lo ero, perché mia moglie non era più in grado di comprendere che cosa stava accadendo. Guardavo inebetito mia figlia sola al centro di una stanza troppo grande e pensavo: se solo voi sapeste cosa significa dover attendere la morte e desiderarla come il minore dei mali, non avreste inflitto a Eluana lo strazio di tutti quei giorni in un letto in balia degli altri. Nel silenzio a un tratto ho riconosciuto la mia voce. Addio, stellina mia, ora riposa in pace. Ho pianto, i singhiozzi erano talmente forti che mi squassavano lo stomaco. Ed è davvero la prima volta, non aveva mai parlato, scrive Grazia Maria Mottola, papà Beppino, di come non fosse riuscita a concedersi neppure una lacrima di quel momento. Ora lo fa invece raccontando, insomma, gli ultimi giorni, tutte quelle tensioni che ricordate nel paese, nel libro La vita senza limiti, appunto, edito da Rizzoli e che esce in questi giorni in libreria, anticipato dal Corriere della Sera. Cambiamo argomento, andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore del lunedì, che oggi dà una notizia molto interessante per tutti coloro che vogliono o vorranno comprare casa. Sui super mutui, l'alt dell'Europa. Che succede? Succede che la Commissione Europea sta mettendo a punto una direttiva con nuovi vincoli per le banche. Questa direttiva prevederebbe di concedere dei mutui che arrivino al massimo al 40% del prezzo dell'immobile, mentre ora in Italia si può arrivare fino all'80%. In pratica che cosa vuol dire? Che oggi su un immobile del valore accertato di 200.000 euro banche e intermediari finanziari possono erogare fino a 160.000 euro, l'80% appunto. Se entrasse in vigore il tetto del 40%, sullo stesso immobile si potrebbero dare solamente 80.000 euro. Questa è l'apertura, con all'interno due pagine molto interessanti. L'Europa mette un tetto ai super mutui, questo progetto della Commissione che vuole ridurre al 40% il rapporto tra finanziamento e valore dell'abitazione, e Saverio Fossati a pagina 5 spiega anche come comprare casa sarà più difficile. Perché? Perché i mutui sarebbero abbassati come entità e dunque immigrati e famiglie a basso reddito subiranno il colpo della stretta sui mutui. Davvero una novità che nel momento in cui dovesse entrare in vigore cambierebbe, stravolgerebbe il mercato immobiliare per quel che riguarda i mutui. Voglio segnalare in chiusura 5.000 sdraiati sull'asfalto, i ragazzi contro i killer al volante. Questa la trovate sul Messaggero. Nel centro di Roma, una manifestazione per la sicurezza stradale mi permette di rilanciare il sondaggio di cui ci occuperemo tra mezz'ora alle 8.30, il sondaggio che vogliamo dedicare oggi all'alcol e al volante, e vi vogliamo chiedere molto banalmente se siete favorevoli a introdurre, come vuole qualcuno, il tasso zero, zero assoluto per chi guida, quindi abbattere anche i limiti che tanto fanno discutere, 0,5, 0,8, 0,2, abbassare, mettere tasso zero, neanche una goccia di alcol per chi si mette al volante. Siete favorevoli o no? Dovete votare sul sito radio24.it e poi ne parleremo alle 8.30. Trovate anche altre notizie sui giornali, come l'università che regala un anno agli iscritti della WIL, è un reportage di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. L'università è la Partenope di Napoli, che dà appunto la possibilità a chi è iscritto alla WIL Campania di venire riconosciuti 60 crediti, praticamente un anno secco, uno sconto di un anno secco su tre per la facoltà di giurisprudenza, o credo anche per le altre facoltà, insomma, all'Università Partenope, un qualcosa che ovviamente Sergio Rizzo dice come l'ennesimo scandalo delle università italiane. Lo trovate a pagina 22 del Corriere della Sera. Sono le 8 e 15 minuti, eccoci qua con 24 mattino. Breaking news. Notizia appena giunta in redazione: un'esplosione si è verificata questa mattina a Milano davanti alla caserma Santa Barbara di Piazza Perrucchetti. Sul posto il 118 sta medicando due feriti. Al momento, secondo le agenzie, non si hanno altri particolari. Si tratta appunto, come dicevamo, della caserma Santa Barbara di Piazza Perrucchetti. Ci sarebbero due feriti. A più tardi per gli aggiornamenti. Ecco, grazie a Massimo Licenza per questa breaking news. Vi terremo ovviamente aggiornati. Dicevamo l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno, carissimo, ben ritrovata. Alessandro, grazie, buongiorno. Eccoci a tutti. Qua, eccoci pronta qua, pronta per una nuova settimana. Eh sì, esatto, non sono solamente pronta io, sono pronti anche i signori del NAFOP. E chi saranno mai, direi? No, infatti, sai che io imparo però, quando sto qua imparo. Guarda, adesso mi sbizzarrisco uno di questi giorni con una bella interrogazione, poi vediamo. No, già, guarda, Valentina Furlanetto venerdì mi ha interrogato. Davvero? Qua, dal 4 al 4 al 5. Devo andare a ripescare la registrazione, sì. Allora. Allora, buongiorno a tutti, perché ho interrogato Alessandro Mila sul NAFOP. In realtà non è solo Alessandro a non conoscere questa associazione, perché sta muovendo i primi passi da qualche tempo. È l'organizzazione italiana che si occupa di cominciare a dar corpo alla professionalità dei consulenti finanziari indipendenti. Allora, perché li abbiamo interpellati questa mattina? Perché è partita sabato scorso un'iniziativa, sabato scorso era il 10 ottobre, e andrà avanti fino a domenica 18 la settimana dell'investitore, che è organizzata proprio dal NAFOP, l'Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti, presieduta da Cesare Armellini. Presidente, buongiorno. Buongiorno e vi ringrazio per l'invito. Grazie a lei, Presidente, di essere con noi. Noi vorremmo capirne qualcosa di più, perché da tanti anni siamo tartassati di un'offerta molto ampia di servizi finanziari, che ovviamente ci arriva soprattutto dal settore bancario, dal settore assicurativo, quindi vorremmo esplorare un po' meglio questa, che non è esattamente una novità, perché voi state lavorando da molti anni su questo fronte. Intanto presentiamo la settimana dell'investitore, Presidente. A che cosa serve? A chi è rivolta? E soprattutto, come possiamo fruirne come risparmiatori? Ecco, la settimana dell'investitore è il primo evento nazionale che i consulenti indipendenti hanno organizzato in Italia, e quindi è un evento per noi storico, e speriamo che rimanga anche nella storia dell'Italia. Naturalmente, brevemente, comunque il consulente indipendente è quel soggetto che è remunerato unicamente dal proprio risparmiatore e non ha nessun collegamento con banche o reti di vendita. Ecco, meglio fare questa premessa, visto che siamo comunque un'associazione abbastanza giovane, siamo nati nel 2005. La settimana dell'investitore, che cos'è in definitiva? Tutti gli studi di consulenza indipendente hanno deciso di aprire le proprie porte a tutti i risparmiatori, investitori. Quanti sono, Presidente, intanto gli studi di consulenza indipendente che già operano nel nostro paese? Nel nostro paese noi stimiamo che possono essere intorno a 500. Naturalmente quelli che fanno parte della nostra associazione sono intorno ai 250 studi. Sono un po' meno. Quindi insomma potremmo andare in questi uffici di consulenza indipendenti. Intanto, per esempio, Presidente, come dire, sarete aperti in tutte le città. Come posso fare a sapere qual è lo studio più vicino a casa mia, se volessi approfittare di questa opportunità? Ecco, noi abbiamo creato un sito apposito che si chiama lasettimanadellinvestitore.it. Ecco, su questo sito ci saranno tutte le spiegazioni sia sulle le attività e servizi che vengono erogati dagli studi, sia dove ovviamente si trovano con tutti gli indirizzi necessari. Ecco, tra l'altro vedo che saranno 54 le province dove poter trovare i vostri studi aperti e disponibili. Peraltro altre informazioni si possono trovare anche sul sito della vostra organizzazione, che è nafop.org. Presidente, a parte il fatto che vogliate, immagino, cercare di così far capire in cosa consiste il vostro lavoro, cercare di divulgare il lavoro di questa professionalità, come dicevamo prima, più o meno nuova per il nostro sistema di consulenza finanziaria, cosa vi ha mosso verso questa iniziativa? Perché farla ora, in un momento in cui c'è una grande tendenza a proteggere il proprio risparmio, a rischiare poco? Basti ricordare quanta domanda c'è ancora da parte dei risparmiatori di BOT, che in questo momento rendono zero. È proprio per questo. Noi siamo nati su una e abbiamo avuto una grossa spinta, e gli investitori ci stanno cercando proprio in questi ultimi 2 anni, proprio perché il nostro servizio va verso la protezione del patrimonio. Le spiego un concetto molto semplice. Nel collocamento, nella vendita di un prodotto finanziario, che cosa avviene? Avviene che c'è il passaggio di un rischio dal chi vende il prodotto a chi lo compra, al risparmiatore finale. Purtroppo l'elemento, diciamo, problematico è che maggiore il rischio che viene trasferito al risparmiatore, maggiori sono le commissioni che chi colloca il prodotto prende, e quindi c'è una spinta, un conflitto di interesse a spingere prodotti più rischiosi. È per questo che invece il consulente, che non ha nessun collegamento con gli intermediari, le banche, non ha nessun interesse a far rischiare di più il proprio cliente. Anche se, Presidente, quello che dobbiamo precisare è un aspetto molto importante: voi non vendete prodotti finanziari, prodotti assicurativi, prodotti di risparmio, voi vi limitate a spiegare alla persona che si rivolge a voi come è composto il proprio giardinetto di investimenti, e quindi cercate di fargli capire se va bene per lui o meno. Questo non esclude ovviamente il lavoro che poi la banca fa di vendita dei prodotti. Voi fate una cosa diversa? Noi facciamo una cosa proprio diversa. Noi quasi ci sostituiamo al nostro cliente. Noi andiamo a trattare, diciamo, le condizioni con gli intermediari. Ma qual è la prima fase di quando il risparmiatore arriva dal consulente? Il consulente prende in mano la situazione del suo cliente, si trova gli strumenti, i prodotti finanziari che compongono il suo portafoglio. Ecco, qui bisogna aprire una breve parentesi, molto brevissima, in cui noi sappiamo che in Italia sono stati venduti circa 1.000 miliardi di prodotto finanziario che si trova nelle tasche degli italiani. Sì. Su questi 1.000 miliardi, che trasformati nelle vecchie lire sono circa 2 milioni di miliardi delle vecchie lire, quindi è una cifra veramente imponente, abbiamo avuto che una ricerca di Mediobanca, quindi un soggetto esterno, ha dimostrato che nell'arco di 5 anni queste gestioni, il 98% di queste gestioni non è efficiente. Non è efficiente significa che se ad esempio investe sul mercato, diciamo, italiano, il rendimento è inferiore a quello che il mercato italiano ha dato. Quindi il lavoro del consulente indipendente, il lavoro iniziale è prendere questi strumenti, eliminarli, cioè consigliare la vendita in quanto non efficienti o dal punto di vista dei costi o dal punto di vista dei rischi che si trovano all'interno, e andare a sostituire con strumenti semplici. Lei ha parlato del BOT, ma se gli italiani avessero avuto, tra virgolette, ovviamente una semplificazione, il BOT, non avrebbero corso determinati rischi. È comunque, insomma, come dire, non dico un discorso complesso, però, come dicevamo anche in apertura, la vostra professionalità sta muovendo i primi passi da poco, per cui sicuramente ci sarà molto lavoro da fare per farlo comprendere appieno ai risparmiatori italiani. Presidente, quanto costa la consulenza indipendente? Perché io mi ricordo, qualche tempo fa ho organizzato una puntata su questo argomento nella mia altra trasmissione, che è Salvadanaio, e devo dire che erano emerse da parte dei risparmiatori che ci hanno chiamato molte perplessità in questo senso. Se io vado in banca dove ho un conto corrente e ho magari un rapporto organizzato con il direttore della mia banca da tempo, ho la sensazione che magari mi possa anche fare la consulenza finanziaria dandomi i prodotti di investimento che la banca vende, facendomi, non so, un forfè, mi propone una struttura commissionale che magari ritengo adeguata alle mie esigenze. Perché devo venire da voi? Per esempio, in termini di costi, che cosa ci guadagno? Vorrei essere chiarissimo sì. Su questo punto. Io, come ho detto, gli italiani hanno 1.000 miliardi di prodotti nelle loro tasche. È stato dimostrato che i costi, i prelievi che ci sono all'interno di questi prodotti, costi che non sono ovviamente tutti noti al risparmiatore, ammontano mediamente ogni anno al 3%. Cosa significa? Che un risparmiatore che ha 100.000 euro non sa che il sistema gli preleva 3.000 euro all'anno. In 3 anni significano 9.000 euro. E quel prodotto, dimostrato da varie ricerche, anche americane, ha dimostrato che il 98% di questi prodotti ovviamente non sono efficienti. Cosa significa? Che con l'intervento del consulente indipendente, chi ha 100.000 euro si può risparmiare quasi in toto le 9.000 euro, ipotizziamo che se ne risparmiano 7.000 euro, e quindi può capire che una parcella di 1.000 euro è ampiamente ripagata praticamente dalla consulenza. Però, Presidente, questo è un concetto solamente quantitativo. Certo, dopo c'è l'aspetto qualitativo certamente, che è importante. Però vorrei rimanere per un attimo all'aspetto quantitativo, anche se poi ci dobbiamo salutare perché fra un minuto devo ridare la linea ad Alessandro Milan. Il nostro paese è un paese di grandi risparmiatori, lo sappiamo bene, molte persone che hanno investito nel settore immobiliare negli ultimi anni perché tendono, lo ribadiamo, a proteggere molto il proprio risparmio. Ci sono però anche dei portafogli di investitori di investimento molto più modesti, molto più moderati, molto più piccoli. Voi aprite le porte anche a loro, Presidente? Apriamo le porte anche a loro. È giusto che anche loro possano usufruire della consulenza indipendente. Noi abbiamo nella nostra, diciamo, sistema di pagamento anche la tariffa oraria, tale che un soggetto, pagando ovviamente le 30 euro, 50 euro, 200 euro, dipende ovviamente dal livello professionale dello studio, come è per i professionisti, commercialisti o avvocati, può usufruire di questa consulenza senza avere degli oneri. Infatti, tra l'altro so, Presidente, che per esempio potete dare anche consulenza in tema previdenziale. Non è detto che per forza di cose dobbiamo venire da noi, perché abbiamo 10 fondi di investimento in portafoglio e dobbiamo verificare se questi vanno bene per il nostro profilo di investimento. Potete anche fare una verifica, per esempio, su quella che è la nostra storia previdenziale, giusto? È giusto, io infatti l'ho solo parlato del servizio veramente base, ma il servizio del consulente è la pianificazione del patrimonio, e quindi pianificazione previdenziale, pianificazione assicurative sono i due aspetti che si avvicinano immediatamente al piccolo risparmiatore. Benissimo, allora per tutti coloro che sono interessati alla settimana dell'investitore c'è il sito www.settimanadellinvestitore.it. andate a vedere se in una città vicino alla vostra c'è un consulente che apre le porte del suo studio oggi per farvi così un piccolo check-up finanziario. Grazie al Presidente Cesare Armellini del NAFOP, l'associazione che rappresenta i consulenti finanziari indipendenti. Stamattina mi sto incespicando, Alessandro, cosa sarà? Il tempo che cambia, lunedì, sarà la lingua che si intreccia, non lo so. No, oggi un po' più caldo, dai. La lingua che si intreccia un giorno ce la spieghi. Vabbè, capita. Salva Danai. La famosa patata in bocca. Salva Danai, oggi ritorniamo, ti ricordi, gli incentivi per la moto? Ah, così benissimo. Finalmente cambi quel motorino con cui vieni in ufficio, che è indecoroso. Sì, ma vengo alle 5:30 quando è buio, non mi si vede tanto. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. Prima, come abbiamo sentito nella breaking news di poco fa, un piccolo aggiornamento su quello che è successo a Milano, dove, ripetiamo, è avvenuta un'esplosione questa mattina davanti a una caserma. Al momento si starebbero medicando 2 feriti, non si hanno grandi particolari. Una esplosione che è avvenuta davanti alla caserma Santa Barbara di via Perrucchetti a Milano. Vi terremo ovviamente costantemente aggiornati man mano che usciranno nuovi particolari. La politica non finirà come nel 94. Silvio Berlusconi ha annunciato la sua controffensiva dopo la bocciatura del lodo Alfano, ha attaccato magistrati, la Corte Costituzionale di sinistra e la stampa estera che ha detto sputtana il paese. I 3 candidati alla segreteria del PD, Franceschini, Bersani e Marino, si sono sfidati ieri a Roma alla convention nazionale del partito. Tra 2 settimane le primarie. Se Bersani ha puntato sul progetto per un'alternativa di governo, Franceschini ha insistito sulla durezza dell'opposizione dando dell'ominicchio a Berlusconi. Infine, Hiroshima e Nagasaki, due città giapponesi distrutte dalle bombe atomiche, hanno lanciato la loro candidatura alle Olimpiadi del 2020. Sono le edizioni per le quali si parla anche della candidatura di una città italiana, Roma o Venezia. E allora, detto che ci eravamo lasciati venerdì con il sondaggio su Berlusconi perseguitato sì o no dalla magistratura, il risultato è che vi siete divisi, il 52% ha detto di no. Oggi con il nuovo sondaggio vogliamo parlare di alcol e di guida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. La domanda che vogliamo fare è secca, ma voi sareste disponibili ad arrivare ad un tasso zero alcol, ma non zero virgola qualcosa, zero alcol per chi guida, neanche un goccio di vino, neanche un goccio di superalcolici, niente di niente. Ieri forse chi ha visto i telegiornali o chi era a Roma ha visto una manifestazione anche dall'impatto visivo molto molto interessante. È stata promossa dall'ANIA. Io voglio salutare il segretario della Fondazione per la Sicurezza Stradale dell'ANIA, Umberto Guidoni. Buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci tutti qua. L'ANIA, l'Associazione delle Compagnie Assicuratrici. Ieri che cosa avete fatto? Avete messo 5.000 persone, tra l'altro un numero non casuale, per fare che cosa? Noi abbiamo messo 5.000 persone perché corrispondono al numero dei morti del 2007 sulle strade. Le abbiamo fatte sdraiare in modo che rappresentassero i dossi artificiali, quelli che vengono definiti tecnicamente i dissuasori di velocità, perché abbiamo voluto far sì che le persone siano esse stesse dei dissuasori dai comportamenti scorretti alla guida. Chi guida male non mette a rischio soltanto se stesso, ma mette a rischio anche chi trasporta e chi incontra sulla propria strada, e quindi noi abbiamo detto a tutti i cittadini di farsi carico di questo e di diventare dei dissuasori dei comportamenti scorretti alla guida. Allora, uno dei problemi alla guida sicuramente è l'alcol. Allora, io voglio fare sentire quello che disse qualche giorno fa il ministro Luca Zaia in un'intervista, tra l'altro, a Quattro Ruote. Perché? Perché c'è grande dibattito sia sui dati, sia sui dati del numero degli incidenti causati dall'alcol, sia anche si dibatte molto per quel che riguarda i limiti proprio. Mentre vi ricordo che per votare dovete andare su radio24.it alla sezione bianco o nero per votare il nostro sondaggio. Se volete invece chiamare per intervenire, 800 24 00 24. Sentiamo Luca Zaia. Il limite di 0,5 mg litro di alcol nel sangue corrisponde oggi a un paio di bicchieri di vino. Questo è quello che dice il codice della strada, per cui trattare le persone che bevono un paio di bicchieri di vino come gli ubriaconi vuol dire non essere in linea con la legge italiana. E soprattutto ricordiamo, per chi si vuole lavare la coscienza, che solo il 2% degli incidenti stradali in Italia avviene in guida in stato di ebbrezza, cioè abbiamo un 98% di incidenti, secondo le statistiche, che avvengono per altre motivazioni dove il guidatore non aveva bevuto. Io sono per la tolleranza zero, nel senso che chi guida in stato di ebbrezza deve essere veramente punito severamente, e il problema è che non possiamo pensare di portare a zero il limite, perché portando a zero il limite di alcol nel sangue significa che anche un bicchiere, un aperitivo, un paio di bicchieri a pasta non si possono più bere. Allora Guidoni, poi veniamo ai dati, perché so che voi li contestate questo 2%, ma innanzitutto è vero che lei dice noi saremmo disponibili anche a portare a zero, il non 0,5 come adesso, ma zero limite, così tagliamo la testa al toro? Guardi, vede, ci sono tutta una serie di imprecisioni anche da parte di chi in qualche modo rappresenta la cosa pubblica e quindi dà delle informazioni che non sono corrette, perché... Voglio dire, su questa cosa noi sosteniamo che chi guida non deve bere, così si taglia veramente la testa al toro. È inutile dire 0,2, 0,5, 0,3, ciascun fisico, a seconda se si è maschio o femmina, a seconda dell'età, a seconda di quanto si mangia prima, a seconda del proprio metabolismo, risponde all'alcol in maniera diversa. Quindi noi diciamo, e credo che non sia un sacrificio per nessuno, diciamo chi guida non beve, e questo elimina qualsiasi tipo di polemica su questo tipo di aspetto. Per quel che riguarda i dati, 2%, so che voi dite ma che 2%, sono il 30% quelli legati all'alcol, insomma, allora vediamo di capirci qualcosa, perché voi dite il 30%? Guardi, non lo diciamo noi, lo dice l'Istituto Superiore di Sanità, che da questo punto di vista sicuramente ha un valore scientifico molto superiore al nostro. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto una cosa semplicissima, è andato negli ospedali, pronto? Sì, la sentiamo bene. Chiedo scusa. è andato negli ospedali, ha preso le dimissioni ospedaliere derivanti da incidenti stradali a seguito di varie cause e ha calcolato quelli derivanti da alcol e uso di stupefacenti. Ha fatto una stima e ha stimato che il 30% almeno degli incidenti sono legati a conducenti in condizioni psicofisiche alterate. 30%. Quindi, i dati dell'Istat derivano dalle rilevazioni delle forze dell'ordine. Allora, le faccio un esempio: l'incidente di Tivoli di un paio di settimane fa, nel momento in cui il conducente muore e per esempio il tachimetro sta a 120 all'ora, viene ascritto come un incidente dovuto all'eccesso di velocità. Nessuno farà l'autopsia sul conducente, nessuno saprà mai se quel conducente andava a 120 all'ora, ma contemporaneamente era anche sotto l'effetto di alcol. Quindi diciamo sono statistiche da rivedere secondo voi, secondo l'Istituto Superiore di Sanità al rialzo. Tra l'altro stia con noi Guidoni, io voglio salutare, la sta ascoltando, credo anche con molta attenzione, Federico Razzini, che saluto, buongiorno Razzini. Buongiorno. Razzini è il vicepresidente del gruppo consigliare della Lega Nord in Friuli Venezia Giulia. Razzini, l'abbiamo chiamata perché insomma ci ha molto colpito, nei giorni scorsi i giornali se ne sono occupati, di quello che è stato già ribattezzato il federalismo etilico o il federalismo alcolico. Io vediamo se la traduco bene così la sua proposta. Lei ha detto: ma altro che 0,5 in tutta Italia, ci sono regioni dove l'abitudine è bere magari un bicchiere di più rispetto che un bicchiere di meno, e allora bisognerebbe vedere i limiti alcolici in base alle regioni, più o meno è così? Sì, beh, senz'altro è così. Beh, innanzitutto non si può che non sottoscrivere pienamente quanto ha detto il ministro Zaia. È in corso una, secondo noi veramente inspiegabile, campagna di criminalizzazione contro quell'alimento che poi è una parte anche fondante della nostra agricoltura, del nostro... ma anche direi della nostra tradizione, della nostra cultura, che è appunto il vino, il bicchiere di vino a tavola, no? Una cosa veramente inspiegabile. E poi mi dispiace per... è evidente, no, che diciamo i rappresentanti delle compagnie assicurative, che ovviamente puntano a massimizzare i profitti, chiaramente, no, ci tengano a non pagare assolutamente, no, uno che abbia bevuto anche mezzo bicchiere di vino. Però questo insomma ci deve evidentemente far riflettere, ecco. I dati Istat sono reali, a meno che non si voglia mettere in discussione l'Istituto Nazionale di Statistica, dicono che soltanto il 2,09% degli incidenti avviene per cause dell'alcol. Sì. Non solo, ma di questo 2,09% il 90% avviene in seguito a persone che hanno assunto e hanno nel sangue quantità superiori all'1,5 grammi per litro, quindi quantità di alcol molto elevate. Ma perché lei vuole... La questione dello 0,5 è una questione totalmente infondata. Lei pensi che lo stesso ministro che era ospite poco tempo fa su questo stesso argomento di Bruno Vespa, sì, di Porta a Porta, no? Dopo aver bevuto un bicchiere di vino, no? Davanti proprio a Bruno Vespa, è stato posto immediatamente a test alcolimetrico con macchinario e strumentazione ufficiale della polizia stradale in studio, risultò avere un tasso superiore addirittura a 2,32, cosa da confisca dell'auto. E quindi che allora, vuol dire questo? Persino gli etilometri non funzionano, perché se uno beve un bicchiere di vino e due minuti dopo gli fanno il test, siccome ha nel palato appunto tutta questa presenza vinosa, no, sì, anche con un solo bicchiere si può rovinare la vita. Però Razzini, veniamo al punto, perché lei dice aumentare per esempio in Friuli credo a 0,8? Cioè perché? Perché tradizione in Friuli è bere un po' di più rispetto che in Lombardia, per esempio? Allora, io dico questo: fino a pochi anni fa la scienza stessa, che adesso si straccia le vesti dicendo che è d'accordo con le compagnie assicurative per dire che bisogna avere tasso zero di alcol, no, quindi allora proibiamo il vino, proibiamolo, se bisogna avere tasso zero proibiamolo. Allora proibiamolo per chi guida, cioè nel senso, qua si sta discutendo per chi guida, non in assoluto, ma che... distruggeremmo un'economia italiana così gratuitamente, appunto, perché? Appunto, voglio dire, provocazione, non voglio assolutamente proibirla, è evidente, ma chi dice proviamolo per chi guida, evidentemente ha interesse a che chi la guida ha magari solo un tasso di 0,1 per non pagarlo se dopo fa un incidente, questo è evidente, no? Vabbè, questo lei è chiaro, ha detto adesso tra poco risponderà Guidoni, dice l'interesse delle assicurazioni è di non pagare, questo poi risponderà Guidoni, ma mi spieghi il suo di interesse del perché alzare i limiti? Delle compagnie assicurative veramente mi fa un po' sorridere, insomma, ecco. Credo che gli automobilisti non lo riscontrino quando vanno a fare magari a chiedere qualcos'altro. Razzini, usciamo da questa polemica con le assicurazioni che adesso le rispondono. Mi dica perché lei lo vuole alzare questo limite. Sì, lo sto dicendo perché lo voglio alzare, perché per la stessa scienza che adesso dice zero, no? Fino a pochi anni fa era uno. Se lei vedeva i test scientifici fino a pochi anni fa, dicevano che la perdita di leggera tra l'altro perdita di percezione visiva, leggerissimo rallentamento dei riflessi, dei tempi di reazione, avveniva dopo addirittura avere il tasso superiore a 1. Poi questo è diventato 0,8. E questo sarebbe 0,5. Un qualcuno tasso... Qualcuno lo voleva far portare a 0, ma allora è una convenzione. Però mi scusi, questo sarebbe... Continua, non rispondere alla domanda. Questo sarebbe un tasso univoco. Perché lo vuole in Friuli 0,8 e in Piemonte 0,5 e in Sicilia 0,2? Perché siamo regioni in cui c'è una grande tradizione enogastronomica e una grande abitudine al bicchiere di vino. Diceva, ecco, una cosa giusta, una delle poche a mio avviso che diceva prima l'esponente delle assicurazioni, sì, era quella che ci sono persone che hanno una maggior tenuta alcolica, una maggior abitudine al bere e altri meno. E altre meno. Nelle regioni dove c'è una grande abitudine al bere il bicchiere di vino, sto parlando, non sto parlando di dosi di superalcolici. Sì, sì, sì. Ecco, bisognerebbe... Può essere chiaramente migliore. Allora, Razzini, no, rimanga con noi, anche Guidoni, poi risponderà tra un attimo. Devo dare il traffico, voglio salutare anche il professor Giorgio Calabrese che ci sta ascoltando. Buongiorno, professore, buongiorno. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Detto che finora il 54% di voi dice no a mettere il tasso zero, zero assoluto di alcol, questo sul sito radio24.it. Professor Calabrese, ci aiuta allora a capire, qua si parla tra federalismo alcolico, alzare i limiti in base alle regioni e chi dice invece no, mettiamo a zero, così eliminiamo tutte le polemiche, anche un bicchierino non va bene e basta, fermiamoci insomma. Lei che dice? Ma cosa dico? Veda, il concetto di fondo è questo. Qua sta diventando come gli OGM, le soluzioni le cercano i politici invece di cercarle gli scienziati. Allora, qui dobbiamo essere estremamente chiari. Abbiamo fatto una trasmissione porta a porta dove abbiamo fatto vedere che non mangiando e bevendo fino a 2 bicchieri di vino una persona regolare facendo il test dell'etilometro è verde, cioè significa non parte neanche la misurazione se fossimo davanti a una pattuglia della polizia, perché in effetti in una persona adulta, in una persona non etilista, in una persona normale, ancora di più con l'alcol che si è inserito sempre comunque mangiando, mai a digiuno, non si ha una reazione deleteria nel nostro organismo, anche se noi, io parlo da medico, se io volessi vedere che bevendo l'acqua che reazione mi fa nel cervello e bevendo anche un goccio di qualunque sostanza alcolica che reazione mi fa, è naturale che l'acqua è neutra e l'altra ha delle reazioni. Ora dobbiamo decidere se un bicchiere di vino, di birra, una tazzina di birra o io superalcolico non lo considero mai, perché per me il superalcolico è da evitare, tranne in varie eccezioni. Poi parlo delle bevande alcoliche regolari, la birra e il vino, e la birra bevuta non al posto dell'acqua, bevuta sempre come se fosse alcol, almeno nella sua quantità precipua, è che in questi casi noi non abbiamo una reazione deleteria dei riflessi. Certo che se noi lo facciamo in vitro, in laboratorio, una piccola differenza deve per forza esserci, ma questo non vuol dire che io non riesco a guidare. Però lei dice, insomma, è come se uno fosse un po' stanco, come se uno fosse... Non è solo, ma io voglio dirle, immagini un ragazzo che si alzi, mettiamo che è arrivato a casa alle 5 di mattina. Alle 9 succede una cosa, deve alzarsi d'urgenza. Lui si mette alla guida. È sicuramente meno lucido di uno che era normale, che è andato a cena, che ha mangiato quello che doveva. E che ha bevuto un bicchiere. Ma certo, io lo dico. Tant'è che ho fatto una proposta che poi c'era un collega che non accettava, che era la proposta non scientifica ma del buon senso. Se io bevo un bicchiere di vino, bevo una tazzina di, scusi, una lattina di birra, ogni volta aspetto un'ora dal mettermi alla guida. Se ne ho bevute due, aspetto due ore. Se ne ho bevute tre, aspetto tre ore. So che non è una cosa scientifica, ma è la soluzione scientifica del buonsenso. Certo. Io voglio andare, ci sono due ascoltatori, poi vado da Guidoni che replicherà Razzini. Roberto da Mantova, buongiorno. Sia veloce, lei che dice, tasso zero oppure un bicchiere o due van bene? Ma guardi, io ho incontrato sabato scorso a Verona al premio Masi George Sandeman, che è il produttore famoso di portoghese, che è l'animatore del wine in moderation, cioè di bere con moderazione. I grandi produttori di vino oggi sono consapevoli che bisogna moderare i consumi, perché bere troppo fa male. Ma mettere tasso zero, io credo che oggi, di fronte a un assicuratore che ha tutto l'interesse a fare tasso zero, si sarebbe dovuta sentire l'associazione dei produttori di vini, perché se noi guardiamo quello che è la situazione di incidenti, basta guardare per strada dove ci sono i mazzi di fiori, una delle cose che strappa il cuore a tutti, e si guarda quali sono le ragioni di questi incidenti: non segnalazioni fatte, paletti messi male e ogni genere di tranello. E stare a mettere contro l'economia italiana del vino, che è una cosa importantissima, una sorta di capestro estremamente negativo solo per interessi economici delle assicurazioni, mi sembra una cosa assolutamente... Va bene, grazie seria. Roberto. Francesco da Milano, buongiorno. D'accordo, buongiorno, no? Che buongiorno. Dice? Ma io volevo dire, il signore di prima mi ha levato le parole che volevo dire. Non sono per niente d'accordo, perché, come diceva il signore prima, se andiamo a vedere i morti che ci sono sulle strade oggi in Italia e forse anche altrove, risalgono, sono tutti al di sotto dei 30 anni. E andiamo a vedere quale date, venerdì, sabato. Ecco, per cui io sarei del parere di chiusura ore 1 di notte delle discoteche, non apertura all'una. Però Francesco, scusi, in discoteca culturalmente, storicamente, i giovani che fanno? Vanno all'una, poi che c'entra? Bevono fuori, nel caso, se vogliono bere, oppure se vogliono andare veloci. Su questo, ma non la seguo molto, però grazie per il suo intervento. Guidoni, deve dare una replica, siamo in chiusura. Insomma, qua l'accusano, dico, certo, le assicurazioni vogliono questo, non vogliono pagare perché vogliono mettere il tasso zero perché non vogliono pagare. Guardi, molto semplicemente si risponde: le assicurazioni, nel caso in cui qualcuno provoca un incidente in condizioni di ebbrezza, risarciscono il danneggiato e si rivalgono sul guidatore ubriaco, perché questa è una causa di rivalsa che le assicurazioni esercitano in molti casi, e quindi non hanno nessun danno economico. Per cui non c'è assolutamente nessun interesse economico, e pregherei gli interlocutori di informarsi bene prima di parlare. In secondo luogo, noi abbiamo fatto anche una valutazione del danno all'economia del paese, no? Nessuno considera il fatto che un ventenne che muore perché magari viene ammazzato da un guidatore in stato d'ebbrezza ha un'aspettativa di vita di 60 anni. In quei 60 anni consumerà mezzo ettolitro di vino, e questo sicuramente non lo potrà fare più perché è stato ammazzato da qualcuno, e quindi non so se anche questo non è un danno per l'economia italiana. Forse questo non lo prende in considerazione nessuno. Quindi noi non diciamo e non stiamo criminalizzando il vino, tant'è che l'associazione dei produttori di vino ha fatto una iniziativa con noi quest'estate, a giugno e a luglio, chiedendo l'alcol zero per i neopatentati. Quindi addirittura i produttori di vino hanno fatto delle iniziative con le assicurazioni che Razzini sta criminalizzando, proprio per dire alcol zero, perché il bere responsabile conviene prima di tutto a chi produce. Ma tra l'altro alcol, voglio dire, questa è la proposta di legge anche che si sta facendo largo un po' lentamente, appunto, il tasso zero per i neopatentati e gli autotrasportatori. Razzini, voglio concludere con lei. Senta, ma perché lei dice c'è un attacco? Nessuno vuole attaccare l'economia fondamentale dei produttori di vino in tutta Italia, ma per carità. Perché lei però associa l'idea che tasso zero, comunque durezza per chi guida, e l'alcol a un attacco all'economia? Sono due cose ben diverse. Non vorrei essere stato in parte frainteso. Noi siamo per stangare severamente chi guida ubriaco. Diciamo che però chi ha un tasso di 0,5 e secondo noi lo 0,8 che c'è in Inghilterra, in Irlanda, addirittura lo 0,9, che non mi sembra che siano regioni, nazioni, dei paesi lassisti, no? Anzi, l'Inghilterra. Sono limiti entro i quali si può considerare appunto l'addizione di cui diceva prima il professore autorevole, di bere con moderazione. Questo è il discorso che facciamo. Perfetto. Noi. Così salvando sia la sicurezza stradale, sia una delle voci importantissime della nostra economia, è un fattore culturale importante e aggregativo come quale quello del bicchiere di vino a tavola mangiando. Nessuno vuole tutelare. Sì, anche se devo dire che la vostra proposta in Friuli è stata raccolta un po' da... Guardi, la nostra proposta, qua volevo venire, è stata anche un po' un voler provocare contro tendenza, contro questo eccessivo... Un po' una provocazione. Esatto, contro queste eccessive restrizioni che si vorrebbero veramente imporre alla libertà dei cittadini. Dice, noi che siamo friulani vogliamo 0,8 perché abbiamo la cultura del bicchiere. Vabbè. Tenga presente che chiaramente una mozione regionale non ha valore di legge. Ma certo, certo. Ecco, sarà poi la legge nazionale a stabilire questo testo. Però volevamo lanciare un segnale. Ecco, non un segnale è anche un po' una provocazione. Io vi ringrazio, mi devo fermare qui. Federico Razzini, che è vicepresidente della Lega Nord in Friuli Venezia Giulia, il professor Giorgio Calabrese e Umberto Guidoni, segretario della Fondazione per la Sicurezza Stradale dell'ANIA, l'associazione delle compagnie assicuratrici. Grazie. Votate sul sito radio24.it alla sezione bianco-nero. Vi chiediamo se volete il tasso 0000 assoluto per l'alcol per chi al volante. Con Alessandro Marcotullo in redazione e Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo domattina alle 7.30.